Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, seconda puntata che dedichiamo al progetto Innovance, il primo database nazionale dell'edilizia che è in corso di costruzione e che costituirà una vera e propria enciclopedia online di tutti i componenti edili in commercio, delle loro caratteristiche fisiche e delle modalità di messa in opera. Come abbiamo visto ieri, si tratta di un grande open data che sarà come tale accessibile a tutti gli interessati, con ricadute molto ampie sul settore delle costruzioni. Prima di tutto, all'origine della proposta e di questo lavoro c'è un obiettivo, quello di evitare gli errori legati alla trasmissione di informazioni lungo la filiera dell'edilizia. Ne abbiamo parlato ieri, errori che poi si manifestano in cantiere e che sono all'origine di ritardi, di costi addizionali che secondo uno studio americano sono quantificabili in circa 50 euro per metro quadro costruito. Ma le ricadute di questo sistema sono molto più ampie, per esempio si potrà progettare un edificio al computer e verificare con un semplice click se tutti i componenti utilizzati, cavi, tubi, finestre e chi più ne ha più ne metta, sono posizionati correttamente, per esempio con quanto prevede la normativa. Questo è un po' il riassunto di quello di cui abbiamo discusso ieri, ma il progetto Innovance ha anche un'altra faccia che fin qui non abbiamo neppure sfiorato. Infatti, oltre a registrare prodotti, il tal modello di tubo per l'acqua prodotto dalla tale impresa e così via, questo sistema è predisposto per tenere in pancia anche interi edifici con tutti i loro componenti, interi fabbricati, anche ponti. Ora cerchiamo di ragionare questa sera sulle ricadute di quest'altra possibilità, sempre con l'aiuto del responsabile scientifico del progetto Innovance, Alberto Pavan, che è tornato a trovarci. Buonasera Pavan. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora io direi, partiamo da un caso molto concreto che lei mi ha raccontato qualche giorno fa al telefono. Lei è un architetto e spesso viene chiamato a intervenire negli arbitrati, quelli che scattano tra Stato italiano e imprese appaltatrici in caso di una vertenza, di un problema. Il caso in questione riguardava una palestra, ce lo racconta? Ma sì, era un caso in cui è successo un problema su tutta la pavimentazione di una palestra. Il problema era relativo alla formazione di un massetto, che è quella parte in calcestruzzo che sta sotto la pavimentazione, sul fondo, e quando siamo andati a controllare abbiamo scoperto che il progetto presentava 5 diverse misure di spessore di questo massetto e l'impresa è riuscita a farla in una sesta misura ulteriore. E sta di fatto che l'impresa vuole essere pagata per il lavoro che ha fatto. Se ha sbagliato l'impresa, questo non dovrebbe accadere, ma vai a dimostrare che ha sbagliato l'impresa se ci sono 5 misure diverse previste per il fondo in questione, no? Certo, quindi considerate che lo Stato italiano è stato condannato nel 99% dei casi in arbitrati contro le imprese e nel 2010 questa cosa allo Stato è costata 425 milioni di euro. Quindi se già tu per la parte più consistente, il progetto occupa il 75% del tempo di una costruzione, quindi 75% progetto, 25% costruzione. Se tu sbagli già lì, è ovvio che poi è difficile chiedere all'impresa che risponda di quello che ha poi eseguito. E che eventualmente ha anche sbagliato in proprio. Ecco, perché molte varianti in corso d'opera, le classiche cose che fanno aumentare i costi delle opere, sono legate ad aspetti di questo tipo. Sì, c'è molta difficoltà a rendere coerenti i vari documenti, quindi il contratto, il computo metrico, l'elenco prezzi, il progetto come parte disegnata. Sono tutta documentazione che in realtà dovrebbe essere coerente, ma che in pratica è difficile da verificare. Innovance può controllare in un unico momento, siccome il dato è unico, che lo scriva o lo disegni, per lui è sempre un dato unico, a questo punto Innovance ha un controllo automatico su quella che è la concretezza e la regolarità dell'informazione che lei trasmette all'impresa o a un fornitore. Ecco, quindi una prima ricaduta di questo sistema che abbiamo detto incorpora interi progetti di opere pubbliche che diventeranno obbligatorio registrare in questo database è questo qui, ma ne possiamo immaginare molti altri di benefici, per esempio la gestione del patrimonio pubblico diventa più semplice. Ma la gestione del patrimonio pubblico diventa semplice perché anche qui il progetto una volta ultimato può essere registrato in Innovance con data di ultimazione e ovviamente tipologia di materiali impiegati, quindi il sistema all'interno di un progetto è in grado di dire al 25° anno se ad esempio è scattato il tempo entro cui rifare la copertura, controllare che il cappotto sia in perfetta manutenzione, integro, certo. Sia integro. Insomma, per esempio, se oggi noi volessimo sapere quanti sono i tetti delle scuole italiane da rifare, non potremmo farlo così molto facilmente, mentre questo sarà possibile. Un altro esempio che possiamo fare riguarda forse quello che è accaduto all'Aquila un paio di anni fa. Ad esempio, avendo registrato tutti i progetti, noi potremmo scoprire in tempo reale il giorno in cui succede una qualsiasi accadimento, speriamo non grave come quello, però possiamo sapere in tempo reale, avere i disegni dei cementi armati in tempo reale, sapere chi li ha progettati, quando sono stati progettati, sapere qual è la centrale di bettonaggio che ha fornito i calcestruzzi, dove è stato preso il ferro, e in un giorno potremo avere tutta la documentazione da dare alla magistratura, per andare a pescare certi personaggi che popolano questo paese. Dunque, abbiamo parlato di edifici pubblici, ma se un costruttore che per esempio costruisce edifici di altissima qualità, case passive, o utilizza il protocollo LEED, quindi vuole documentare al meglio la costruzione, ecco, questa persona può utilizzare, può appoggiarsi a questo sistema? Sì, sicuramente può appoggiarsi al sistema Innovance, può creare dei codici riservati, dei codici privati che gli servono per sviluppare tutto il suo progetto, che poi può ripubblicare in Innovance, ottenere per il solo suo progetto, ma il fatto che abbia seguito queste procedure garantisce la qualità del prodotto. È uno strumento per documentare il lavoro che si fa. Poi se uno costruisce male, magari non è tanto felice di documentare, lo eviterà. Ma perlomeno quelli che costruiscono bene e che quindi sono fortemente motivati a documentare, avranno uno strumento in più a disposizione. Sì, perché è chiaro per tutti, cioè sarà una cosa molto visibile e facilita il fatto che chi non dichiara il dato è ovvio che Qualche motivo ci sarà, mentre io che lo voglio dichiarare finalmente sarà chiaro che lo sto dichiarando. Grazie Alberto Pavan, allora buon lavoro. Solo una domanda di chiusura: quando tutto questo diventerà attivo? Fine 2014 è tutto operativo. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.